lascia Pechino. Dice qua, ci saranno 10. Ascolti, vedo. E lo sai che non me ne frega, perché no? Ma allora dice. Chi c'è? Faccio un casino. Ui, ciao Valì. Ehi, vabbè, noi casino già lo superiamo. Lo superiamo? Ma non lo so, no. Lo superi? Sì, abbondantemente lo superi col REM. Tu, 92, 93. Anche tu, ricopri tutto. No. C'è due propagazioni, ma propagazione di. No. Ti capi duri. E allora, non sei andato al mare? Okay. No, io non sono andato al mare. Troppo casino. Poi oggi c'è caldo. Ma senti, perché è caldo oggi? Allucinante, ma vai. Sì, Giulio, sono qua, sto parlando a Valerio. Sì, ma infatti io sono andato via a mezzogiorno, oggi al lavoro. Niente, poi a casa, ti dico mi sono riposato, una bella doccia fresca. Poco fa mi sono proprio, ero sdraiato nel divano, mentre si accendo un po' la radio, vai chi c'è. Ok, Vale. Va bene, è entrato anche Giulio. Avanti Giulio. Oh, Maurizio! No, io non so se mi ascolti, sto facendo con un dipolo, per cui sarà difficile. Ma io ero lì verso i 27.500 e oltre anche, e stavo parlando almeno un'oretta da lì, che si è chiamato un sacco di volte, ma evidentemente stava riposando e non mi potevi sentire per quel motivo lì. Vabbè, non fa niente, adesso ci sei. Va bene così, quindi tu poi mi dici che chiedi a Valerio se mi ha sentito, ma non credo però. E poi mi dici perché stai facendo con il polo. Vale, l'hai sentito a Giulio? No, non lo sento, no. Mi schiaccia in mezzo a Giulio che mi si è arrivato sul giorno 9, vedi un po' tu. Propagazione c'è lì. No, non ti sente perché c'è propagazione a Santiago Nove o Giulio. Che stai facendo con il polo? L'antenna? L'antenna non l'ho montata, per cui quello discorso è quello. No, vabbè, nemmeno io sento lui, sento un leggerissimo bisbiglio, ma niente di più. No. Anche perché sto uscendo con 10 watt nemmeno. Vabbè, forse aumentando, ma non voglio portare, non si sa mai. Vabbè, non la tenere sotto 10 watt con la radio, Giulio, te l'ho detto un sacco di volte. Mettila almeno a 10-15 watt, non la tenere sotto i 10, che non le fa bene a questa radio tenerla sotto 10 watt. Capito? Non le fa assolutamente bene, io ce l'ho sempre a 20 watt e la tengo a 20 watt. Non so, ma tu hai l'antenna, io ho il dipolo, per cui non so. Sì, vabbè, è acquattato, d'accordo, tutto quello che vuoi, però. Non voglio rischiare, sì. Se faccio così, vediamo un po'. Attento Valerio, mi senti adesso? Adesso sono attento in questo momento, qua. Avanti Valerio, mi hai ascoltato? Sì, ti ho sentito poco, ma adesso perché c'è stato un momento che non parlavo. Tu lo senti? Sì, adesso lo sento, basta, ma lo sento. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Qui è un casino. Quando c'è propagazione, al massimo posso sentire Claudio, gli altri Caputo, no, forse Caputo, non c'è niente da fare. Riprendi nuovamente, Giulio, buonasera comunque. Hai sentito giù, riprendi adesso, già ti sente, basta, ma già ti sente adesso. Sì, che proprio nel finale è arrivata una bella scarica di propagazione. Però non posso utilizzarlo così, tu privati, perché sto uscendo con un dipolo, Valì, per cui non voglio portare la radio, capisci? Dunque ritorno a quei vatti di prima e non se ne parla. Pazienza, avremo modo di sentirci magari meglio in altre occasioni, ma per oggi non voglio rischiare troppo. Ok, riprendi qua, dai, rimetto, ecco. 10, ecco 10 watt, 10 watt, più no, dai, il dipolo è sempre un dipolo, vedi qua. E io per 10 watt vanno bene, ma non stare sotto 10 perché non va bene, non lavora bene la radio, non lo aumento mai, io ce l'ho sempre a 20 watt, sia al 430 che al 440. in manutenzione, quindi un po' di pazienza e poi lo sentirai bene. Quindi al mare non ci si è andato. No, no, ma neanche io, ho lavorato stamattina, sono uscito alle 10:30 al fresco, ho cercato proprio di andarmene più in fretta possibile, a mezzogiorno perché a Sosso, anzi 11:30, a mezzogiorno meno un quarto, a mezzogiorno più tardi e sono andato via perché è un po' caldo, poi la domenica non faccio il sole, quindi non è che ti puoi mettere a fare cose domani, è una giornata abbastanza piena, quindi non ho fatto oggi ma farò domani, molto bene, avanti riprendi voi. No, no, no. funziona. Allora ti devo fare una chiamatina e poi ti dirò a che ora più o meno arrivo, va bene? Va bene, no, ma domani mattina penso di sistemarlo, capito? Tanto passare in ufficio a timbrare, c'è il ragioniere, mi faccio, lo faccio mettere a posto. Domani mattina dovrei essere attivo con WhatsApp, quindi non c'è problema, vai. Va bene, avanti Giulio. Ok, avanti Becco, avanti Becco. Avanti Becco. Buonasera, sono Giuseppe. Ripeti, non ho capito il tuo nome nativo. Giulio, la sarta in compagnia degli amici qua. Avanti, poi ti passerò uno per volta. Avanti l'amico. Ok, ciao Giuseppe, salutoni, Giulio da Sassa, del Nord Sardegna, compagnia di Claudio, Valerio da Alghero, Giovanni da Mare e Marco sempre da Sassa. Mando avanti Marco per l'amico Giuseppe. Negativo. Italia, prego Italia, che Dio. Oh, me non ne ho voglia di far di ex, Giulio, dai. Prova tu Claudio. Oh, io questo Giuseppe non lo sento. C'è un altro che chiama, sicuramente è Bosnia, Croazia, non lo so chi è. Però questo Giuseppe non l'ho sentito, Giulio. Ma dove sta trasmettendo? Aspetta, Guido, aspetta Giuseppe, ripetimi la tua località, perché mi sfugge in questo momento. Ripeti Giuseppe per cortesia, perché la propagazione non è molto buona, per cui c'è qualche amico che ha qualche difficoltà nell'ascoltarti. Avanti Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Il tedesco, io mando a filo. Oh, sento, un bel di lingue tutte assieme. E così non si riesce a fare un DX, dai. Sono steso. Do il ventilatore a soffitto a 2 e non sento aria. Sento calore sulla pelle, boh. Capito? Chissà, per solo 2 o 3 ore che siamo stati. Si sente la radiazione solare, male se si sente. Italia, spaghetti, mandolino, pizza, very, very good. Ma noi ce la mangiamo la pizza, tu invece no, forse non conosci nemmeno il sapore, vabbè, dai. Avanti, Valerio, se mi hai ascoltato. Valerio, riprendi che ti ha rilanciato Giulio. Che avevano tutti sparati, sai Germania, 9:10, io ti metto. Giulio, l'ho messo male. Io non riesco a sentire per niente, però sento la mano appena matto. Matto, ti devi fare una bella doccia, non fredda però, perché fredda fa male, no? Tiepida, quindi un po' freschina, no? Vedrai che poi stai meglio, poi ti metti anche il dopo sole, stai benissimo. Sì, tipo un dopo sole rinfrescante, ecco. Io non ce l'abbiamo. Posso al limite a bagnarmi la pelle, boh. Un anno l'abbiamo avuto il dopo sole rinfrescante, era molto molto bello. Questi prodotti qua devi usare, altrimenti ti senti sempre caldo, perché poi il caldo è diminuito con la domanda, capito? Se no vieni e faccio dare a me 2 recate da Filippo, ti passa subito. E se gli dici a mare, ma uno deve andare al mare e poi soffrire il caldo, stare con... No. Ci sa di che vai a casa, vero Marco Giù? Sì, già lo credo. Marco si è incendiato. Marco, metti uno sbattuto di acqua e olio e te lo spandi sulla pelle ed è rinfrescante. Se non hai la crema lacca. Già mi metta, vedrai che sai meglio, che capisco cosa vuol dire essere bruciati un pochino dal sole, o meglio bruciati acqua. Avanti Marco. Sì, anzi no, bruciato no, pensa che non sono per niente bruciato, ci sono bianco praticamente come prima, però il corpo diciamo che si è accorto della radiazione solare. E ha riscaldato la pelle o quello che è, insomma. Perché avevamo, siccome abbiamo dimenticato anche pianificato, non trovavo più le mie creme solari da 10 da 20 il fattore, no? Abbiamo usato una crema da fattore 50 che è la mamma. E nonostante ciò, il calore sulla pelle si sente come? Via. Infatti noi non possiamo stare più al giorno al mare, assolutamente, nemmeno io da solo, perché se no muoio. Posso stare quelle 2-3 orette, guarda, forse anche 4 se è sera, se vai verso le 4 così, quando il sole ormai non è più pericoloso, però bello, però e l'acqua e la calla sembrava pipì, ve lo dico, sembrava pipì, potevi stare ore e ore in acqua, era un bijou. Lo so Marco, però appunto proprio non ti ha fatto effetto, o meglio non ti fa effetto quella crema, o non era di quelle buone, anche a parte il fattore 50, però ripeto, guarda, è l'antica, come facevo una volta, le persone anziane una volta, acqua sbattuta con l'olio, ci metti un po' d'olio nell'acqua e te la fai formare sulle spalle, insomma un po' dove sei arrossato, diciamo, dai, vedrai che stai meglio nel giro di pochi minuti, che ti rimane fresca la perché rimani unto, ma è fresco, capisci cosa voglio dire, è tutto lì. Va bene, dai, avanti qua, dai, girare su per il validio. Guarda, ok, sì, ma infatti no, io sono già un po', diciamo, l'erogna, ho già un po' grossato, perché a volte sono un pettonuro, anche se come quello sto facendo qui, un po' di colore ho già preso, che andando al mare non mi brucio, magari mi brucio le gambe, sono più bianchi, ma questo è così. E vabbè. Ma mia figlia c'era lì, lì a Mugoni oggi, cioè, ci stava la favola. No, capito, scusa? Ho detto che c'era mia figlia a Mugoni, ci stava la favola. Ma la mia figlia a Mugoni ci sta molto meglio rispetto a qua vicino, diciamo, Guadalghero, perché l'altro ha reato, l'altro passa un po' l'acqua lì a Mugoni, rimane più fresca perché ci sono delle vene, delle sorgenti, capito? L'acqua rimane più fresca, rimane più fresco come zona, capito? Mi fa molto molto meglio. Qua adesso qua proprio vicino, diciamo, il Lido, è un centro, no, con tutta la gente che c'è, che piscia a bagno e l'acqua fa sempre la tengono a temperatura alta, no, per me ancora ripeto, è presto andare in spiaggia, andare in spiaggia è presto, vado avanti, vediamo un po', così un mese, la domenica sono libero, prendo mia moglie, non vado al mare, ma adesso ancora già va bene così, a domo, e me devo riposare io, capito, mi hai? Vai Marco. Via. Ma tu Claudio, quando vai alle saline, cosa fai? Sei tutto il giorno o metà giornata? Guarda, noi, siccome lì non c'è problema di posto, di niente, perché lo vedo, io vado lì dove c'è il chioschetto, cioè vai un bellone e tutto, comunque tu vicino sei tutto il giorno, però noi in linea di massa partiamo da qua sempre, perché uno sistema di cane si fa tardi, capito? Parto sempre intorno verso le 10, così arrivo lì verso le 10:30. Alle 5 me ne sto andando io, proprio faccio lo stacco di pranzo, così, giusto per riposarmi un po', poi alle 5 io sono già a Sassari. Eia, oh, c'è gente allucinante, quello che ti ho detto ieri, mi. I genitori di questa ex andavano dalle 9 al mare e tornavano alle 8 di sera, 7-8 di sera. Qui dove andavano loro c'era un caldo ma terrificante, anche se stavi all'ombra sentivi i ciottoli con la sabbia rovente, quindi tornavi che eri distrutto, non riuscivi più il giorno dopo a fare nulla. Eppure loro facevano così, e infatti no, non ci sono andato più poi. ho detto non ce la faccio io a fare sto ritmo. L'MB più 5 Claudio, solo l'ho lasciato un po' fermo, no? Ho pulito tutto bene, adesso si è sporcato di nuovo di polvere, devo ripulire da capo, qui a bimba lo segnali mi. Ovvero 640 e via, qui si è anche agganciato, la radio è favolosa, bella forte, chiara, molto bella, te l'avevo già detto, mi pare che l'MB più 5 con quel baracchino lì funziona molto bene. Avanti Giulio. Ok, confermo anch'io, funziona molto bene, veramente. Sì, sì, va benissimo. E anche il segnale è aumentato, Marco. Qual è stato? Ha cambiato anche la parete oppure gli ha dato un po' di vitamine? È lo stesso segnale identico di Claudio. 9 più 15, 9 più 18 e a questo, con questa antenna, eccetera. Se no quello di Claudio sarebbe anche 9,20, 9,22 con l'antenna proprio, ma al momento non è possibile. Riprendi Marco, dimmi, il campanicolare è sempre quello o di prima oppure ha aumentato i watt? Sempre quello, ho aumentato i watt per farlo un po' andare, per fare un po' andare linea retto, dai. Natalino non è entrato oggi, no? Ma io l'ho chiamato più volte, poc'anzi, alle 6 ho cominciato a chiamare, ma non, evidentemente non è a casa, non lo so. Riprendi qua. Gappa. Sì, il segnale è quello alto che usi quando attacchi, 9,40 e anche di più. La radio è favolosa, ma è molto bene con l'MP più 5, tienilo. Tieniti così come sia adesso che stai andando perfettamente bene. Ok, no, io sono con 20 watt, Giulio te l'ho detto, lui mio sta usando un'ottantina. Però sale parecchio qua, Marco, c'è un segnalone fortissimo qua, quello mi arriva più forte di tutti dalla zona bassa, diciamo, di giù, vai. Capito? Avanti, vale. Marco, sta arrivando una bomba, sta arrivando veramente bene, ma bene veramente, sentiamo 8 con picchi di 9, la modulazione è perfetta, una meraviglia, veramente perfetta. Guarda, a me interessa solo passare la propagazione. Già c'è qualcuno che ti sorpassa, poc'anzi c'era la portante che ha tappato anche Claudio. Ok, c'è un break, io non so questo break, se è qua, cioè qua, diciamo, a trapper oppure è roba di fuori, non lo so. Sì, vediamo se sono io, buonasera al gruppo, Regione Lombardia, Lago di Como, buongiorno Luca. Io ho sentito Lupo, Regione Lombardia, Lago di Como, buonasera, qui Sassari, Nord Sardegna. Lago di Como, provincia Lecco, buonasera a tutto il gruppo. Ciao Luca, buonasera, Lago di Como, qua da Sassari si sta trasmettendo Claudio Sparviero, l'isola sarda, ti passo avanti adesso Giulio Dollaro, avanti Giulio. Ok, ciao Luca, salutoni, ben ascoltato, Sentavo 9 più 5 e radio 5 a bomba, perfetto. Avanti ancora Luca, sul Lago di Como se mi hai ascoltato, K. Sì, ascolto tutti splendidamente bene, dai, fate tutti i segnali, molti segnali alti, per quello che ho chiamato, dai, ho ben acceso. E io se mi sembrate una bella volta, quindi ho voluto invitare per entrare e salutarvi. Riprendi Claudio. Sì, Luca, molto bene, 5-9 anche per te, senza problemi. Abbiamo anche l'isola del Corallo che ti mandiamo avanti Alghero, Valerio, per Luca, Lago di Como, cambio. E lo sento perfettamente bene, sentiamo 9 Radio 5. Buonasera Luca, Alghero, avanti. Valerio, anche a te ben ascoltato, 9-5 rapporto. Avete tutte delle splendide radio, dai, in questa trasmissione. Ehi Luca, com'è il tempo là? C'è abbastanza caldo, com'è là il tempo? Io abito a 630 gradi, dai. Oggi sono molto caldo, umido, di solito qua si sta benino perché abbiamo montagne di 2000 metri, ma oggi è veramente caldo. Ma Giulio se hai ascoltato, riprendi, grazie. Ok, ho ascoltato molto bene. Sì, anche qua il caldo non scherza, anche qua si permette Marco, poc'anzi si lamentava che si è addormentato al mare. va bene, bravo Marco, bravo, fallo di nuovo, sto scherzando chiaramente. Ok, sì, non ci sono problemi ad ascoltarti, Luca, qui arrivi, ripeto, come ho detto poc'anzi, 9 più 5 è radio a bomba, va benissimo la tua modulazione, non ci sono problemi, ti rimando avanti Claudio per Luca ancora. Cata, molto bene, sì, beh, anche qua Luca siamo intorno a quei gradi, forse 30 non ci arriviamo, ma oltre i 25 sicuramente sì. Romeo, a quest'ora magari è calato, ma all'ora di pranzo eravamo intorno ai 26 gradi, quindi siamo insomma costanti con la vostra zona, ecco tutto qua. Molto bene, avanti Valerio. Cosa devi dire? Qua ci sono 30 gradi fuori, ciao Claudio, all'ombra, figurati un po'. Ci sono ancora 30 gradi e abbiamo superato i 30, siamo arrivati a 34 qua da Piero, Sassari no, io rientrando c'avevo intorno ai 26-27 gradi, ed era l'ora di punta, quindi adesso è calato, però anche siamo intorno ai 25, più o meno esternamente, io ho il controllo sia esterno che interno, quindi siamo intorno ai 25,20, quindi non siamo neanche a 26 gradi, ma c'è il venticello qua, perlomeno qua in montagna, nella mia zona c'è venticello fresco, si sta benissimo, magari Alghero è più come si dice, arriva più caldo sicuramente. Ok, avanti Marco. Il vero è più livellata, più sul livello del mare. Mi sarebbe bello andare in bicicletta mia all'Alghero. Sarebbe bello. Cosa volevo dire? Nemmeno doppio Roma è entrato, no, niente. Ok. Allora c'era la breccia comunque, c'era una breccia, veniva da nord-ovest sempre, nord-nord-ovest. Quindi il caldo era in spiaggia, era sopportabile, perché anche se c'è vento, come diceva Giulio, la radiazione solare sulla pelle picchia, si accumula, altro che. Meno male che avevamo anche quella crema antisolare, se no ci saremmo cotti a puntino, dai. Adesso vediamo se avere orari più tranquilli, tipo andare più tardi, andare alle 4, che ne so, anche alle 5 per dire, fregarsene della bronzatura e farsi il bagno. Vediamo un po' cosa facciamo, sì. Prego. Guarda, l'orario più bello infatti è andare nel pomeriggio al mare, non andare all'ora di punta, perché non serve assolutamente a niente. Io vi chiedo permesso un attimo di allontanarmi, perché ho la sistema del cane, quindi se ci siete ci sentiamo dopo. Il compito a Giulio di far girare la ruota, c'è stato un altro break. Saluto Luca, un abbraccio, un saluto, buona domenica, alle prossime, grazie per essere entrato a salutarci. Io mi allontano un attimo che ho il cane da sistemarmi, se no si fa tardi. Questa mattina è uscito molto poco, quindi Giulio riprendi tu, fai girare, io rientro appena ho terminato di sistemare il cagnone. Dopo signori, che Giulio. Ok, riprendo io, allora faccio venire avanti il becco. Avanti il becco, Giulio da Sassari in compagnia di Marco e Valerio d'Alghero, avanti il becco, non c'è più, non lo sento più Marco, evidentemente la preparazione è calata. Marco, ma te la immagini che sarà la situazione? Non mi sente Valerio e riesco a parlare con la penisola intera, perché stasera ho parlato più di un'ora, infatti, perché non c'era nessuno su questo canale, dunque sono andato verso il 27.500 e giù di lì, insomma, tutte quelle frequenze lì. Ho parlato con me da Italia, quanto è strana, te la immagini o Marco? Sì. Perché Valerio quando ti ascolta, conta che se non ti sente è solo per la propagazione, però mi Giulio. Lo so, anche perché io sto usando per almeno 10 watt, dunque siamo lì, dai. E poi sto uscendo con il polo, per cui non va bene. Magari vorrebbe orientato verso lui, non lo so. Comunque va bene. Io negli ultimi passaggi comunque Valerio l'ho ascoltato. Evidentemente la propagazione sta subendo un pochino. Avanti Valerio, se mi ha ascoltato, vediamo un po'. Marco, casomai stai da ponte. C'è stato proprio un momento che ti ho sentito, Giulio, proprio un momento di pausa, no? Ti ho ascoltato, ma senti un po', questo dipolo, come è orientato, verso Alghero o dove? Ma è vero che tu è il dipolo, mi ha chiesto dove è orientato il dipolo, Giulio. Non lo so, dovrebbe essere verso sud, dovrebbe essere, non lo so. Suppongo che sia così, o Marco, non lo so. Vabbè, quindi nord e sud prende, dai. Quindi Alghero è a ovest e quindi appunto non prende bene per quello. Capì? Valerio, è nord e sud il polo, il dipolo. Ho capito, che è nord e sud, non è per quello che mi arriva, diciamo, così bassino, va? No, è Santiago 3, capito? Santiago 3, se non ci fosse il tuo REM lo sentirei, vedete che c'è troppa gente che parla e viene tappato. Va bene, appena si sistemerà l'antenna, spero di ascoltarlo meglio. Sì, è vero, mi ero dimenticato che Giulio non ha la verticale. Il dipolo, guarda, anche se fosse verso di te, Valerio, ci sarebbe sempre il famoso disaccoppiamento di 20 dB. In più è nord e sud, quindi è un problema, dai. Comunque è bella giornata, Giulio, perché guarda, se noi continuiamo a stare a casa non facciamo nulla in estate. E quindi ho detto, quando possibile dobbiamo sempre andare al mare. Perché tanto l'estate passa in fretta. Siamo già l'11 giugno, mi pare, no? Sì, Marco, per certo. Beh, ovvio, no, bisogna uscire, no? Che bisogna stare legati in casa così. Che motivo c'è lì? Non siamo mica gli arresti domiciliari, ci mancherebbe altro. Si vuole vedere, scattitina. È ovvio, no? Bene, adesso io rilancio a Valerio, però mi faccio sentire per un attimo. Vai Valerio, mi ascolta adesso? Ritorno là, Marco. Si stava ascoltando e poi è arrivata la Germania e si è tappata. veramente. Basta, io andavo in spiaggia tempo dietro, no? Andavo e stavo tutto il giorno, dalla mattina, senza un po' me, senza ombrellone. Senza ombrellone, dalla mattina a sera, tutti i giorni, mi riporto quanto so preso, poi non ho, ormai non ho capito, preferisco farmene, preferisco farmi una fatigata, così la mattina, non ne ho più voglia. Valerio, sei stato coperto da un'emissione strana, una signorina mi sembrava estera. Adesso ti copre. Attenzione, Europa, Nord Europa, qui Italia, Bunga Bunga chiama. Marco, sono Luca, per i saluti. Ah, ciao Luca, scusa che ci eravamo dimenticati, c'è molto, molto ciabotto e tedeschi e un po' di tutto c'è qua, quindi abbiamo difficoltà a sentire anche Alghero, sentirci tra Alghero. Luca, un saluto, buona serata, buon proseguimento di serata, e alle prossime, ok? Ok, grazie. Grazie delle quattro chiacchiere, sono di Giulio, Valeria, Marco, grazie delle quattro chiacchiere, una buona serata, una buona continuazione. Ok, ciao Luca, scusa, ci siamo dimenticati, scusaci tanto. Sì, vabbè, Marco, io devo chiudere, dai, è arrivata gente qua, sono arrivati dei parenti, per cui devo chiudere. Ti lascio con Valerio e poi magari quando rientra Claudio, vediamo un po' se posso rientrare anch'io, ma sul poco di noi. Comunque, comunque le prendi, Marco, dai, sono Tony, ma meglio, le prossime in condizioni migliori magari, quando c'è non c'è preparazione, così almeno avremo modo di sentirci meglio. Ciao Marco, eventualmente salutamelo tu Valerio se non mi hai ascoltato Marco, ciao, grazie per la chiacchierata a tutti e due, alla prossima, ciao, riprendi. Ehi, ciao Gianni. Ciao Giulio, dai, buon proseguimento di serata, se mi dici l'ora prima di chiudere, che sono come sempre, sono in perizoma, non ho orologi, non ho niente, dai. 7:13 Ah, ok. Bene. Gianni, buonasera. Ehi, ciao Giulio, anche a te. Buonasera a tutti, dai. Allora Marco, al mare siamo andati. Ciao Gianni, ciao, a domani, ciao. La mia, proprio di Barcellona. Eia già, sempre con mamma, perché anche a lei piace andare al mare. Siamo andati dalle 3:30 alle 3:30, eravamo lì grosso modo. Siamo andati via 5:30 grosso modo. Poi arriviamo sotto casa, ovviamente non c'è parcheggio. È una via di zombie, questi, non escono mai. C'è sempre una via piena di macchine. Sembra che siano dei cadaveri che vivono a casa e boh, non fanno mai niente. Non si spiega questa storia. Ho dovuto parcheggiare più avanti, per fortuna ce n'era là, più avanti. E tu sei andato al mare? Io sono andato stamattina. Sono andato verso le 9:30, poi me ne sono andato verso le 3:30-4, dai. Ehi, dai, hai fatto la mattinata, cosa che non riusciamo a fare noi perché bisognerebbe stare dalle 9:30, che ne so, a 11:30, a mezzogiorno, andarsene prima che il sole arrivi, sia pericolosamente forte, se no rischio di bruciarmi. Ho sentito Barcellona richiamato, attenzione Barcellona, Barcellona, ascolti la 165, Nord Sardegna, città di Sassari. Sempre il Papa. Capo, dai. Ciao Barcellona, ben sentito, dai. La città di Sassari che ti supercordializza, l'operatore doppio rupa, va. Aiuto, fate corretti, dai, non mi voglio sentire oggi. Ah, è stato. Ah, aspetta che io stacco però. Non va bene, no? Se no poi chiama. Ah, che bello. Così non mi sentono più in propagazione. Cava, cava. Ehi, no, io già mi sono preso un bel po' di sole, Marco, sono come una ragosta. Ma ti sei arrossato, così è. Natalino, la faccia tua, oggi eravamo tutti al mare. Io invece ero al campo che scaracchiavo, ho 200 cappucci e mi sono sparato. Eia. Io ovviamente con mamma sempre, che anche a lei piace molto il mare. Siamo andati nel pomeriggio, Gianni di mattina. Ma tu Gianni avevi di filtro solare, crema ne avevi? Latte abbronzante, come si chiama? Il filtro solare. Sì, certo, mi ce l'avevo. Ma io, Marco, ho una pelle molto delicata, come quella dei bambini. Posso mettermi quello che vuoi anche al 50%, che mi faccio sempre rosso. Io invece sono rosso, divento nero, tipo africano. E tu sei già niente, sei stato a mani. Hai capito, eh? Non mi parlare di africani, c'erano a Platano più negri che italiani. Hai visto che ieri sulla 131 un dottore ha investito uno di colore, un ragazzo di colore, nei fin di vita, è molto bravo. E se muore gli danno un omicidio stradale, era bevuto il medico. Sì, vabbè, bevuto, magari aveva bevuto due bicchieri di birra e subito l'alcol test e sale, così lascia perdere Marco, che una volta che siamo andati con un amico a festeggiare il compleanno, abbiamo prima bevuto acciso due bicchieri di birra e poi dovevamo andare a ballare. Siamo andati tutti in greffa, lui ha visto un fosso, ha scartato per non prenderlo, subito dopo c'era il posto di blocco, lo fermano, gli fanno il contesto e il caso era positivo. Praticamente a casa per due bicchieri di birra, adesso le hanno fatto il processo per guida senza guida e in stato di ebbrezza. Io per quello già, quando devo guidare non bevo niente, non bevo alcol. piccoli sì, se so che devo guidare. È una seccatura, e l'ho detto, passa poco, fanno storie per niente, magari è, anziché 0,50, 0,51 ti fanno storie lo stesso, capito? Perché devono fare i pignoli loro. Se mi trovo a Vavaghiri, Vavaghiri, non solo mi prendevano la patente, mi inculavano a raffica. Che cotto di Natale? Cazzo, l'han pranzo di un compleanno a Papa Borubino con... un'altra gente, non ero corto, però se mi facevano l'alcol test mi trovavano alterato. In queste feste qua c'è una volta, per dire, questa ragazza hanno segnalato un ragazzo che era adagiato sul finestrino della macchina vicino al bivio di Platamona. Siamo andati con l'ambulanza, poi è arrivata la polizia stradale e cosa, perché l'hanno segnalato noi, la polizia stradale, e l'hanno perdonato, perché l'hanno trovato fermo con la macchina, i fari accesi, la macchina è morta, queste ragazze avevano paura ad avvicinarsi, perché non sa mai che erano malintenzionate e cosa. L'abbiamo caricato in ambulanza e ci ha detto, se volete salvarlo, uno di voi deve prendere la macchina sua, lui caricava in ambulanza e l'ho presa io la macchina sua. E il mio collega ha guidato l'ambulanza. L'abbiamo accompagnato fino a casa sua, era tutto in abito, tutto ben vestito, ha detto che era la festa che aveva cresimato una ragazza. Fatto sta che lo accompagniamo a casa sua, a casa della bella moglie. Disgraziato, sempre in queste condizioni pure a via da Ciampi, che studia sul segretario. Hola. Avanti, hola. Sono venuti a dirmi che sto disturbando, non posso guavitare, vai. Con che appare che sei uscito? Ti è venuto Natalissimo? Col solito, E a so, si va giù si l'antenna TV. Ciao, Spero che non si possa rilassare tranquillamente, Cioè è inutile che ogni volta che parla bussa mi stai disturbando, mai bussa mi stai disturbando, aggiustati l'antenna, no, idiota, faccio diavolo. Mi pare che Natalino l'aveva cambiato tutto, l'aveva aggiustata. No, il primo è. Ah, un altro ancora, cazzo. Oh, yeah. Meno male che non doveva disturbare, ma anche io non ne frequo del tipo. Natali, facciamo così. Proviamo in FM. Magari è la M che lo disturba. Io in FM. Attenzione, canale 10 FM. Perché sei saturo già? Saturo so. Natali, parla tu. Guarda, sono qui. Guarda, vedete. Ora? Non dipenderà da me, no. Natali, fa un passaggio lungo. Guarda, un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sento basso. Sento basso io, non lo so cosa c'è. Lui, che palle. No, io a Natali lo sento chiarissimo, chiaro, chiaro. Natali, come mi ascolti a me? Bene. Marco, buttaci la parita. No, già, perché io, caspita, allora i tedeschi... Tutti quelli di EDX poco fa in FM arrivavano chiari. Sei tu che sei saturissimo, incomprensibile. Invece Antonino è radio quasi zero. Beh, non so cosa dirti. Non me l'hanno mai detto che in FM sono saturo. Aspetta il controllo, rimanete qua un attimo. E cambia parte, guarda. Io sto scendendo basso basso. Già. Eh beh. Sì. Andava. Non questa, la prossima settimana sono più figli a te. Cazzo radio zero. Ma cosa io so, non posso aumentare, forse di disturbo. Io ti ascolto perché sei vicino, ma sei basso anche da me, non è che sia molto forte. Ehi, ma sto uscendo basso. Hai abbassato tutto di tua spontanea volontà. No, già è da qua Gianni. Così è? Sì, questo baracchino, praticamente per ricevere l'FM meglio, devi spostare il clavifier tutto a sinistra. Ah, ecco. Mi sembrava strano perché solitamente esco bene. Eia, eia. Comunque è come quello della telefonata già, cioè inutile che come entro mi stai surbando, entro la mano mi stai surbando, e cosa dobbiamo fare? Natalino gli ha detto che voleva risolvergli l'antenna, il problema dell'antenna TV, quello non ha accettato, allora pigliatela in culo, hai capito? Oui, oui. È interessante che Natalino si tenga un apparato omologato, e moduli con quello. Per il momento. Eia, ma lui lo disturba anche con l'omologato, mi pare che l'antifona sia quella, vero Natalì? Vabbè dai, non può parlare. È una seccatura quando è così qui. Sì, no, Marco, oggi ho fatto un bel po' di ricci. Oh, e dove eri? In zona di Scogli? Sì, sono andato io agli Scogli. Sono andato io. Prima maschera. E calzari, ho risolto il problema del piede, ho comprato i calzari, mi lascio il calzare nel piede per non entrarmi la sabbia e tutto finisce. Eia. Insomma Natalino non. Cioè d'altronde se quello rifiuta l'aiuto e allora glielo fa apposta, così è. Asco. Adesso però si fa così. Rimane bongo tutta manetta, se non sa contare la cosa non me la faccio un cazzo. Ti dico, un nuovo Ruzzo, io vi la voglio acquistare la televisione, cosa cazzo vuotami? Ma cos'è, vecchio rimambito o personaggio? La figlia è venuta, adesso che lo stavo disturbando. Ah va, siamo passati in FM, speriamo di non disturbarlo. Oh yeah, prodigalità. Ma prodigalità è lui, no? In FM non dovremmo disturbarlo, così è fatto. No, perché si allontana la frequenza e quindi non dovrebbe. Ma anche in AM la frequenza è lontana, adesso cazzo è digitale, come può essere che disturbi? Ma è lo stesso livello delle antenne TV, l'antenna, io non ci ho fatto caso l'antenna. È più in basso dell'antenna mia, molto più in basso. Ti sto dicendo che non solo essere più in basso, c'ha l'antenna tutta messa male, perché gli scompare proprio il quadro. Eia, prodigalità. E non accetta aiuti, così faceva quello di fronte. Però io aiuto non ne ho dato, perché ne ho messo articoli sui giornali, non ho fatto un po' che di casino isso. Tanto poi la fine che doveva fare ha fatto, si è impiccata che ha compreso che era musulmano. Si è impiccato l'antenna di Gianni. No, davvero, si è impiccato davvero, a scuola, si è messo, era insegnante, si è messo una busta in testa e si è impiccato nel bagno. Eia, comunque Natalì, già. Io penso che se lui ha l'antenna TV messa molto male, questo tipo, anche la sola portante gli fa sparire il quadro, capito? Basta anche la sola portante, che sia in AM, in FM, senza modulare, e il quadro gli dovrebbe sparire lo stesso. Dipende quanto è messa male questa antenna, capito? Sì, grazie per chiamarmi, io lo difendi con tre rate, dai. Se lo disturba con quei pochi watt l'antenna, perché l'antenna messa male, succedeva anche nel mio palazzo, io con 5 watt disturbavo tutto il palazzo e alla fine il capo condominio ha voluto mandare i controlli, sono venuti a casa e gli ho fatto vedere stava uscendo con 5 watt, ha detto non è possibile tecnico, perché il capo condominio voleva fargli mettere un filtro all'antenna, all'antenna TV, no, voleva comprare un filtro. Beh, fatto sta che ha detto io lo metterò in ufficio, come ti ha toccato l'antenna ne farà un pizzo, dice questa antenna è... deve essere, faccio il rapportino, lo scrivo che non è colpa tua e che l'antenna TV che da cambiare, infatti hanno messo l'antenna Francaro, di quelle di marca, eccetera, non ha più dato problemi. Ti sto dicendo, cazzo, che mi disoffendi, sì, lui. Quando mai, cazzo, no, nessuno svago, nessuna cosa, e mi tolgono anche questa, io adesso non le balle piene. Il giorno che mi rompo le balle, pongo tutta la manetta e non me la fatto un cazzo. Quando vieni, dico, chiama di l'antenna. Giusto. Ma io la devo fare un cazzo di voi, tanto io sono più in regola. Carlo di Vigura, sei tu. Occhio che ti mettono una multa se ti trovano con l'antenna messa male, che te ne ricordi per quanto campi. Ma cosa vuole denunciare? Cosa fa? Denuncia carabinieri? Quelli hanno cose più importanti a cui pensare, molto più importanti. Già lo sa qual è l'organo preposto, solo quello può fare il controllo. E vabbè, io ci ho omologato qua a fianco, attacco quello, 5 watt, se lo distingo si riprende di tutti, no, non me ne sbatte un cazzo. È che questo manco AM, manco FM c'ha questo qui, figurati. Ah, quello omologato non ha manco l'FM, e tu favi dell'AM, peggio per lui se è pigliato a colpi. Ma questo esce più basso dell'omologato, adesso sta uscendo. Che sto uscendo con 3 watt, te abbassa anche il macchinino, in modo che non è a 3 quarti. Non si muove nemmeno la lancetta. Ti presto il lineare, gliene facciamo uscire gli occhi. E se mi rompe le balle ci metto molto a comprarmi il BB 131, cazzo l'attacco, giusto, la manetta, via. Riprendi già. Ma così per girare la situazione. Bisogna trovare un punto d'accordo per non bisticciare e via, perché sennò poi sarà sempre guerra, un'altra vita, sarà via tutti i digni. Cerca un punto d'accordo, glielo spieghi, che cos'è? Perché lo faccio vedere, è cambiato l'antenna, non succede più nulla. Quando lo vede poi ci credo. È venuta la figlia, dice che si stavano guardando la televisione, ma se adesso non è venuta vuol dire che mi sto disturbando. Ti stavo dicendo, sono andato a casa sua e mi sono offerto di mettergliela io l'antenna e ha rifiutato. Ah va, si mi rompi una sale balle, mongo tutta la manetta e toccarsi giù. Te lo sai che la fai, mi rubusi la po'. La miri l'antenna e mi la rampi in terra. Una schioppettata che serve ancora già. Vai che si ti rimuoveggia il darreno di fare un viso così di oggi. Io ti temo a te. Ma già, a quanto ho capito quella è una persona di quelle che non vuole sentire niente, capito? Lui deve spegnere e boh, l'ho preso. Non è per il dialogo. Andate a casa sua, gli ho detto che gliela aggiustavo io l'antenna. Di più ne vuoi. E di quelli, ma Natalia è anziano e lui. Eia. Vabbè. Era rimbambito della scida, deve essere di quelli che non accetta ragioni, di quelli che non vuole trovare compromessi. Vabbè, finta che non mi rompo le balle, dopo io pongo tutta manetta a di fare i quando vengono e mi bussano il coso, cosa vuoi? Ma mica sto chiamando la polizia e mi stai disturbando, vattene. Ti posso uscirmi? Se vieni torna a casa mia e ti chiamo la polizia, perché mi stai stalkizzando. E io siccome soffro di ansia, mi baghi babbone. Soffri anche di cuore, no? Quindi è ancora più grave la cosa. E infatti, no, ma io ti dico che soffro di ansia e vedrai chi si ridimensioneggia. So che già meglio, tu sento tre se ci siamo la battuta, che sei venuto a stocchizzarmi, no? Perché io non disturbo nessuno. Sei tu che c'hai l'antenna messa male e te la devi cambiare tu. Eia, perché è che non c'è passato? Ah già, tutti quelli col baracchino ci sono passati. Io c'ho ancora conservato i rittali del giornale, fatti un botto. I rittali, tutto quello che mi faceva, i bigliettini che metteva sotto il portone cercando aiuto, cercando di formare un gruppo per denunciare, per farmi chiudere l'antenna, un casino. Roba da matti, come se tu non pagassi la tassa. Tu gli devi dire, io pago la tassa, il canone come lo pagate voi, quindi io non trovo nulla. Io sono un pindaccio, ma due di quelli che rompevano i coglioni se ne sono tutti e due andati in cielo. Meglio che il diavolo se li codi. Ma sono io le maledizioni che gli ho mandato, le devo fare. Mattane un paio qua all'indirizzo di quello lì. Alla fine poi, se lo sai che a me mi stalkizzavano davvero, quando arrivavo con la macchina, se stavo modulando, prendevano la pila di notte e mi illuminavano la macchina, lei mi sta disturbando il telefono a voce alta. Stronzo, una volta mai. Io la gente tutti i colori, io dico ma c'è tutto il quartiere. No, ma deve essere, non li sto disturbando in FM, perché sennò sarebbe venuta la figlia, dice si stavano guardando la televisione, infatti io non volevo parlare per quello, per non disturbarli. Eia, se voi li mandiamo con le maledizioni alla senorese, mi, tipo chi ti si mandi che su fuoco? Ma mandavi come ti vuoi, pure in arabo vi li puoi mandare. Dica, se chi ci sono sì, chi sono meglio, no? Vai che la vicina, da voi che ti vengono, che arrivo su fuoco e su la benzina. Ahi, anche tu perché ho detto strappati. Io a questa, sono proprio cattiva, chi ti si mandi che su fuoco? E io pure vai, anche di vecchia bisticchita dalle pari del vaglione. Oh, stasera c'era una famiglia, qui c'era noi in spiaggia, sicuramente erano latitozzi, bastava vedere la faccia di lui, la faccia di lei, e si stavano bevendo lattine di birra in spiaggia, lui e la moglie, a stomaco vuoto. Ah, me ne ho ricordato un'altra, Franca, la mia collega che era sorsese, ne diceva un'altra. Vai, anche ti vedi che ha bisciglito da 100 kg di risotti. C'è una amica, la stessa qui di Sussica, me ne ha detto un bel, adesso non me ne ricordo, ma cazzo, sono fratello proprio di chi si lofi a me. Cazzo, tanto dice che è anziano, gli aveva pesato di bocca, hai pidicato io. Ah va, ti dico dopo che braccia mi sussi. Noia. Ma... No, io già ve ne dico tutti i sassarismi. Ah va, hanno colpito tutti e due. Bene, bene, bene. Ma voi due state andando a pesca o no? Ancora no, ma è in programma. Eia, sono andato al sito della che rilascia i tesserini, no, dice che adesso è tutto bloccato perché stanno aspettando un decreto del 2017. Dopodiché quando ci sarà questo decreto si potrà richiedere il tesserino. Domanda, ma se io vado alla capitaneria, lì lo fanno comunque o anche loro devono aspettare il decreto? Niente ne sai. Marco, io capitaneria non è da adesso, da quel dì che sono andato, mi sono informato e mi hanno detto che praticamente col tesserino che c'hai dell'anno scorso non è ancora non è scaduto, anche se è scaduto, perché loro cosa hanno fatto? Si hanno lasciato la data, hanno cambiato tutto tranne che la data, hanno sbagliato la data, mettendola quando loro vanno a richiederlo, 2016 invece che 2017 c'è scritto, capito? Praticamente, e invece che scrivere dicembre 2017 c'è scritto 2016, quindi questa data non è stata mai cambiata e loro danno l'autorizzazione, e poi questo tesserino non è un permesso di pesca, è solo per fare per vedere in quanti vanno a pescare, a fare diciamo delle ricerche così, non è che serve come permesso, però in ogni caso se te lo richiedono è meglio presentarlo. Io mi sono informato e chi è all'ufficio competente, perché l'anno scorso me l'ha fatto lui, mi ha detto questo. Eia, c'è scritto anche sul sito delle politiche agricole, c'è scritto che l'hanno prorogata la scadenza e dice che non è nemmeno punibile non mostrarlo. Proprio perché c'è questa proroga, non è nemmeno multabile se non lo fai vedere. Poi appena sbloccheranno il tutto si può di nuovo fare, perché loro vogliono vedere, più gente c'è che pesca, capito? Un giorno lo tasseranno, sicuramente lo tasseranno, capito? A quello gli interessa, tassare, tassare, il cittadino deve essere tassato. E poi... che poi è ridicolo, mica, perché quello lo puoi fare ai professionisti, ma caspita, uno va a fare pesca sub, non becca nulla, cioè paghi per nulla alla fine. Io non pescavo mai nulla e pago per cosa? Per nulla pagherei. Ma questo è bello che pescano e se lo vendono il pesce. E a canna non si vanno a fare pesca sul barco, si mi hanno invitato pure a me se devi andare. No, non ho capito Natale, ripeti. Ho detto che hanno invitato anche a me se volevo andare. Questi pescano e se lo vendono, a canna vanno, non vanno a fare pesca subacquea e nemica. Andano con la canna e pescano. Eia, però non sono professionisti, no, non sono pescatori da peschereccio, no? No. Sono pescatori dilettanti come possiamo essere io e Gianni. Eia, poi alle canne devo cambiare la lancia perché è vecchia di anni, ormai sarà tutta fradicia. Potrei farlo, ma anche io di notte, mamma mia, ogni freddo di notte, un'umidità c'è, è allucinante. Ah, cosa umidità, con un caso che affendi, cazzo, abbiamo un bel freddo, un chili di vecchi, poi noi siamo tutta la notte, no? Oh certo no, ma Gianni per esempio torna a casa alle 3:30, no già. Gianni è morto. Comunque devo salire in campagna a prendermi tutta l'attrezzatura che io ce l'ho. Se no mi vuoi a fare pesca subacquea col calibro 12. Quello è di lusso, eh. Guarda lì, pensa che vendono ancora il polpone. Quel fucile a molla per ragazzini, il polpone, lo vendono ancora. Deve essere che l'hanno rifatto, l'ho visto in vendita. Ma sono meglio quelli elastici. Natali, mica sto fidando che è arrivata gente a casa, è arrivato Marco a trovarmi, quindi chiudo, lascio. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Salutamelo, ciao. Aspetta, te lo faccio salutare in diretta, là. Cazzo, in che situazione mi hai messo, ma le 50 lire a cereali. Sentitola! No, io l'ho sentito, gli ho detto in che situazione mi ha messo, se aveva le 50 lire. E questa qua non mi fa guarda. Andare. Guarda che cazzo, era tutto il giorno qualcuno. Ma spero mi sta raccontando. Vabbè, ci sentiamo un altro momento, va. Tanto io sto mangiando. Ciao Marco, ciao Gianni, alle prossime. Ehi, ciao Gianni. Ciao Natalino, ciao a tutti, dai. Ah, io faccio ahimè, per piacere, buonasera a tutti. Ehi, Natalino stava disturbando, gli hanno bussato la porta. Torra, bobo. Dice che si stavano guardando la televisione. Quindi sta guardando la televisione. Passa in M, dai. Parla un po', che regolo. Ecco, c'è il regolare. Ciao Natali, buonasera. Non mandalo a farsi fare in quel paese. Eccomi, sta mangiando Natalino e credo che abbia chiuso anche Gianni. Capito? Hanno suonato la figlia di lui, dice che non vedevano la televisione. Però questo aiuto non ne vuole, lo rifiuta. E gli dici che non vuole sentire nulla. L'antenna non se la vuole mettere a posto, e allora cosa devi fare? Piglia di analogi. Io mi faccio la prima a fare quel paese. Perché da Natalino non vedo molto tranquillo, si ragazza. Il periodo passato avete visto che le ha abbassate un mattino. Lui è passato in FM e non hanno più bussato, boh. Ora si pure che in FM non disturbi, Chi lo sa, magari è l'emissione della M che spinge, perché spinge un bel. Cosa vuoi ti dica? Bisogna sempre accontentare, chi è che non c'è passato? Gianni lo stesso, gli hanno fatto stalking, a me lo stesso, quello dei, non lo sai, no, i potenziometri. Sono molto un deficiente, più deficiente avete, non per me, per te, potenziometri, io, comunque, su, è un bel casino, questo non si può aiutare, ma in effetti non disturba sicuramente. Non può disturbare in FM, sicuramente la M, qualche armonica della M che entra, no? Se c'è l'antenna incasinata non c'entra affatto. O si fa diciamo l'antenna oppure si va di lingua come lo sa. E alla fine aiuto non ne vuole questo. Sembra che lo faccia apposta, no? Aiuto non ne vuole, quindi l'antenna rimane così, lui disturba e gli bussa alla porta. inutile, lui modula oggi, bussa, domani modula, domani bussa, dopo domani modula, domani... Cioè, pigliati nell'occhio, non te le dici, ti denunciei giù, cosa denunciei? I carabinieri hanno roba più importante da fare, la polizia va... C'è roba più importante da fare. Esco, quando li trovi così, mi senti il suono, mi... Conti, no? Lui. Vabbè, comunque, il servizio... Servizio di polizia postale c'è sempre, quindi non anche... Capito? Se vuole mandare il controllo, lo mandiamo a te, non è quello il problema. Ma si volevano pagare l'intervento, mi pare, non è poco, no? No, no, no, servizio di polizia postale non si paga. Capito? Non si bisogna di intervenga la camionetta per scarlatio. Quella è un'altra cosa, sto facendo altri servizi. La portata che si occupa di queste cose adesso, capito? Questi interventi li fa la polizia postale, non in borghese, ed è una rottura di palle. Ed è una rottura di palle, capito? All'inizio di Milano non si è presentato in borghese. Però è un brutto di manette, capito? È stato un reato adesso, non c'entra a fare, è diventato un reato. Ma quella era una cosa ben più grave, che la polizia postale non c'era tempo da perdere per che uno vede male la TV. C'era un punto, si è messa male, aggiustatela. Sono cose, quello vedi, quello addirittura stava disturbando frequenze inglesi, frequenze di navigazione aerea internazionali. Non so se mi spiego, ma insomma non ha salito. Vabbè, lascia perdere. Però vanno e vengono controllati, non come scatto lo stesso, perché le cose dai ausili sono lo Stato, quindi intervengo, insomma risolvere quelle private non ha tutti nulla. Però il discorso che ho fatto l'altro giorno è molto, molto, molto pericoloso, l'attenzione all'uso delle apparecchiature materiali, senza essere in regola, è diventato un reato. È diventato reato, bisogna stare attenti, attenti, attenti, occhi aperti, ma un bel parolo. La vecchia niente, non venuta da là. La vecchia era 13 mesi di galera e 6.000 euro di multa, dai 13.000 euro di multa, quindi ma per la volta. Capito? Soprattutto in frequenze dove si è a rischio, capito? Frequenze dove si è a rischio che ci sono altre missioni, secondo te ne vuoi disturbi, ma non è così. Non sto rientro di niente, per disturbare l'uscita del ponte o l'uscita di quello che è o anche una diretta, se nei casini, se nei casini, è passato le altre ormai, riuscimo a occuparci a me, da lontano me ero 193, me ne ha tutti a sé, io l'ho presa per la detenzione in uso, ma soprattutto per la detenzione, per poter detenere la radio, ok? Perché mi sono sempre piaciuta, capito? Per il resto non me ne è mai fottuto nulla a me. Quindi il discorso è molto semplice e molto chiaro. Molto, molto semplice e molto chiaro. Poi c'è gente che è comoda, perché questo è uno che va a parlare in altre frequenze, già lo sai, va a dire, sta usando un auricolare con 20 watt, 10 watt, 8 watt. Non sei manco intelligente, infatti ti registrano e tu sei tutto il sistema di Google Maps da giudito, hanno tutto sotto controllo. Questa volta ce l'hanno fatta a me, non ho fatto le antenne, avevo dato un messaggio, è uno che conosco, ma non è che siamo amici, capito? Ho detto complimenti, dopo 23 anni ti sei deciso a montare le antenne. E io non è che vista con Google Maps, quindi bisogna stare molto attenti. Oggi la tecnologia non è più buccia di gioca, prima la buccia di gioca, ma vanno. Ehi, vabbè, ma a me non me ne fregava nulla, io lo dicevo. Sono quasi banda, 20 watt. Se volete venire, venite, ma venite però, come vedi, sono cose, ci sono gradi, andare su quelle bande aeree è sempre più grave, dai. Stava proprio disturbando a livello internazionale. Infatti è l'Ofcom inglese che ha avvertito il ministero nostro. Ma stavate parlando di una partita voi, che partita è? Per me c'è l'Italia, non è così Marco, tu sei un malefreghista, non te ne affronti nulla, qui e là, ragioni nella tua maniera, io ho ragione passamente, quindi ti è andata sempre bene, perché magari sei simpatico a qualcuno, c'è gente che non è simpatica, quindi c'è quello che fa in agguato, attento, nel momento opportuno ti castagna forte, capito? Ma ti castagna forte, non è che funziona così, non funziona così, un po' posso dire qua, ma io so perfettamente di cosa sto parlando, perché quando era iscritto l'associazione facevamo le prove sintonia e quando avevamo in prefettura c'era una sala radio d'ascolto che tu non hai manco idea, capito? No, ascolto di tutto, di tutti, tranquillo che come ti sto dicendo io. E quindi basta un niente per poter far scattare quel sistema che non deve scattare, siccome la gente è talmente pronta e non approfitta anche dei consigli e continua a fare i suoi ribelli, quindi nel momento opportuno tu stai pur certo che qualcuno ci prende forte, perché è impossibile, questo è quello che io so in generale, poi a me poco mi interessa, a me la torta non la suona nessuno, tranquillo non la suona nessuno. Ma ormai non c'è più nessuno in PMR, cosa vuoi che facciano? Non è più nessuno, Marco Pompone gira, c'è tra più. Se chiedono, ecco, rimanda, sì, guardi, l'ho venduto, no, non ve lo posso dire, c'è la tutela della privacy. Ormai non esiste più Marco PMR, dai, ma che ci va? Come vanno sul 20 anche loro, cioè? Tu ci si sente la camera di mezzo, ma chi ti sta parlando a te del 20, del 30, del 40? Non ha altro che nulla. Io sto parlando in generale, sto facendo un discorso in generale, ok? Sto facendo un discorso in generale, che molta gente è in possesso e in uso di apparecchiature amatoriali senza avere la patente e la licenza. Punto, quello che sto dicendo. Hai capito o no? Sto dicendo questo, io a me cosa me ne frega il PMR, il cane 20, se me ne affitta a me. Quindi puoi fare quello che vuoi. E soprattutto sono in possesso di UHF e tante cose amatoriali che non possono ottenere. Tutto lì, sto parlando in generale, a me non sto facendo nomi nessuno. Sto parlando in generale. E lei, siccome è diventato un reato, capito? In tutta Italia, un po' buono di Sassari, in tutta Italia è così. Noi Sardegna siamo un po' più, diciamo, non dico tutelati, ma un po' più abbandonati. In Alta Italia c'è un servizio che tu non hai idea, ma non hai idea, hai capito? Ma sei Antonio Castagnato, ma Castagnato, radioamatori fuori banda, CB che andavano a parlare fuori banda in V e in U, e anche oltre la banda consentita, oltre i 40 canali, c'è più serietà lì, c'è più serietà, hai capito? Soprattutto la detenzione di apparecchiature HF, in Alta Italia stanno battendo al tappeto, ma forte però, anche ultimamente, che io mi sento spesso con amici che c'ho su, molto, molto spesso, addirittura anche posti di blocco stradale la polizia postale sta facendo, capito? Sì, ma tu questo discorso me lo fai più volte, a me non mi interessa, io non sono pure venduto, non vado in 45 metri, non vado più in PMR, perché me lo fai continuamente questo discorso? Ah, pigliare il culo, non lo sto facendo a te, sto facendo un discorso in generale per dire qualcosa, capito? Non sto dicendo a te, a me non me la tutti quello che hai tu, di quello che usi tu, di quello che usano gli altri, io sto facendo in generale, capito? E anche da poco, ultimamente, ho sentito che in Alta Italia stanno battendo il tappeto, mentre da noi invece le cose non succedono quasi mai. Però può capitare che per colpa di qualcuno, perché si sia aperto un po' il discorso generale, possa scattare la scintilla a quello che sto dicendo. Tu se te l'hai venduto, ma capito, l'ho venduto tanto me lo componi. Ma che poi non lo so quanto lo sfrutterà anche lui. sveglia. Anche prima però, non è che è arrivato solo adesso, mi sa che anche prima se ti castagnavano in 45 metri, comunque in mano con apparecchi amatoriali erano cacchi lo stesso. Non è arrivato solo adesso, ma non credo proprio. Ma si vede cosa hanno fatto a Palino. Vabbè, quello era anche a Banda Marina, peggio ancora, sarà dovuto fuggire. E poi più che la detenzione l'uso, cioè detenzione, sai cosa vuol dire? Tenerlo nella scatola. Tenerlo nella scatola non è vietato. Una volta che la vendita è libera, automaticamente la detenzione. Detenzione vuol dire chiuso in scatola, chiuso nell'armadio. Però chi ce l'ha, chi se lo compra, lo usa pure. Lo collega all'elemento attore dell'antenna, quindi quella non è più detenzione, è uso. Io lo dico in al completo, detenzione e uso, quindi ce l'hai e usi, no? Sì, vabbè, ma in quegli anni lì, negli anni che furono, hanno cercato di castagnare anche a me, quindi no, chiaro che poi con vicino a 10 dice, ma se questa è la mia passione, questa è la mia cosa, devo arrivare ad uno scopo, e così ho fatto, senza chiaramente buttarmi nell'ambito amatoriale, perché radioamatore non vuol dire avere la radio, schiacciare il microfono e parlare, fare amatore, io sì, saper parlare, conoscere soprattutto la cartina geografica, che è la cosa più importante, perché tu senti uno parlando in inglese, sì, è uno svizzero, invece magari è un tedesco, invece. Cioè, bisogna sapere tante cose per poter dire io sono rematore e faccio rematore. Non funziona così. I rematori, ho già detto tante volte che ne conosco bravi rematori, bravi operatori radio, un quarto di cappello ne conosco forse tre, se no due, capito? E sai di chi sto parlando, senza fare nome. Tutti gli altri siamo arrivati nella carta, ci divertiamo, punto. Eia, adesso mi sa che mi faccio fuori anche l'altro, 2008. Tanto cosa non tengo a fare? A tenere la scatola. 2008. VU. Che è quello? Ma questo dubbio, di dubbia utilità, cioè per me, comunque quell'apparecchio l'857 andava venduto un mese dopo l'acquisto, però nessuno lo voleva comprare, mi volevano dare 2 lire oppure baracchini vecchi in fermo, questo un mese dopo l'acquisto, me lo ricordo sempre. Ho detto no, allora per perderci troppo no, non lo do, anzi l'ho venduto meglio adesso che non un mese dopo l'acquisto, capito? Permute, non mi interessano meglio l'An 48, mi ricordo sul Roger Cup, sul forum, dovevano dare l'An 48 cose, ma non c'è meno voce dell'An 48 cose, in cambio di un altro un permute, mezzo soldi e mezzo baracchini, non mi interessava, dai. Anzi, grazie a Dio me lo sono fatto fuori, tanto mi... Ho visto sulla prefettura, peraltro si scelgono male anche le antenne, visto che hanno una banale... Hai visto cosa c'hanno? La CP6 c'hanno, anche tra le altre antenne c'è la CP6. Mamma mia! Sì, come lo dici? Ho avuto un mese per accordarla con l'antenna, però funziona bene anche 10 metri, anche in 11, perché l'ho provata io, quindi funziona, non ti preoccupare, già si sente tutto, e poi ci sono altre antenne che tu non vedi, che sono dietro, nel costone dietro dove c'è praticamente l'androne, quando entri che c'è quel giardino grande, se tu entri lì, non so se puoi entrare, e se levi la testa, guarda cosa c'è, non ce n'è altra antenna. No, la radio è eccezionale, ripeto, a me non mi serviva perché io ho le VU e le U separate, ASI, ho il 780 che non sto usando, prima del 790, ho il 790 collegato e poi ho il 275H della Icon, sempre base da 100 watt e 2, capito? perché sul 790 c'è un amplificatore da 200 watt, invece 275H 100 watt di UHF, quindi ce li ho separati, hai capito? E poi 2HF basi e il 434-40. Se no te l'avrei preso al volo, perché è una bellissima radio quella, molto molto bella, non è ingombrante, fa il suo lavoro e funziona molto bene. L'avevo detto, ma poi ne avevamo parlato. Questo 7000 euro, domani mandami una foto. Tanto domani sono attivo su WhatsApp, stasera no. Mandiamo una foto, voglio vedere qual è. Perché lo lasci pure che se lo vuoi vendere te lo vendo io, non ci sono problemi. Le radio lì sono sempre cercate per il mobile, hai capito? Sì, è il volgare IAESU FT 8008 VEU solo FM veicolare. Solo che ormai non c'è più mercato, perché i radiatori stanno ampliando anche i veicolari digitali. È un casino, è Claudio, dai. È sempre lì, quindi vediamo, dai, vediamo. Comunque ce l'ho, ricordati che ce l'ho. Come se fosse nuovo, è venuto una reliquia inutilizzata, cosa vuoi ti dica? C'è anche il kit di separazione frontalina di serie, non lo devi nemmeno comprare, è tutto di serie, hai capito? Puoi mettere nel cofano, per dire, l'unità centrale, metterti il frontalino sul cruscofano, no? Chi lo userà, se tutto cavetteria, non è una cosa per le... Io quando l'ho usato senza microfono come fosse un ricevitore, ma se uno non è scemo già lo sai, no? Sbarre! Sì, io penso che metà che hai è la testa sul collo, quindi ho fatto un discorso in generale, per carità, non mi permetterei mai di accusare nessuno, però ho visto e capito che molta gente è pronta, no? Non sono intelligenti. E quindi io in 20 anni ho fatto di pirata, ho fatto sempre l'intelligente, capito? Poi però purtroppo arrivano anche gli intelligenti, le basinate, e quindi dopo il primo e secondo controllo ho detto, mi sono deciso di andare come mi ha fatto, e così ho fatto, perché mi hanno voluto bene, insomma, tutto lì. Sì, sì, ho capito qual è quello. Con display arancione? Sì, color ambra. Purtroppo i tastini non sono illuminati, perché alla IAESU per risparmiare una lampadina non li hanno illuminati i tastini, capito? Lo è full duplex, puoi trasmettere, ricevere, c'ha due bande, una a destra e una a sinistra, quindi puoi fare VEV, VEU, UEV, UEU come vuoi tu, e fa anche rima. Ma io guarda, a me mi fa, non riesco a capire, ci mette una data leva, quella radio che c'ho grande, quella della IAESU, e neanche quella c'ha i tastini illuminati, si illuminano le cose che tu accendi, il frullatore, il rode, insomma, alcuni tasti, però non, quelli PC si illuminano, ti dà che è praticamente inserito il tasto, ma come altre radio che ho visto con tutta la... il sistema illuminato, ma io si perde, non è una radio che costa 100 lire, capito? Una radio da oltre 2500 euro, eppure è così, è un dato, non c'è niente da fare. Sì, io ho avuto 7008 di quello, ma una radio Marco così complicata l'avevo comprata nuova, l'aveva fatta avere Massimiliano Archimede. Comprata nuova, l'ho fatta fuori subito e mi ho rimesso il mio vecchio Kenwood 701 e mi banda in macchina, allora l'avevo rimesso per la semplicità e il sistema di colore, che era proprio semplicissima, quella un casino per usare quella radio in macchina, guarda, un casino. Oh, ma aveva anche la banda laterale, qual era di quelle full modo solo FM? No, FM, VEU, faceva anche, sì, da 300, 470, mi sembra, 470, insomma era lì, e poi da 130 a 170, abbastanza ampia come radio, però complicata. Quando dovevo fare i passaggi per i ponti, mi dovevo fermare, non c'era niente da fare, c'erano delle funzioni allucinanti per poter andare a... Se eri in simplex va bene, ma se dovevi andare sui ponti era un casino, mi sono rotto le palle, l'avevo venduta, come pare avevo fatto cambio, adesso non mi ricordo, mi avevo rimesso, io ce l'ho ancora dentro l'armadio, che è un Caterpillar, il primo 701 e mi banda, ok, della Kenwood, e avevo fatto un cambio, ma tanti anni fa con Marco, e c'è addirittura il cappetto per già pronto per la TRS e tutto, che l'ha fatto lui. E c'ho sempre quella, non si è mai rovinata, mai. Leia, ehi, c'è radio, tu sai che molti radioamatori preferiscono il Kenwood VU, Kenwood 700, aspetta, non mi ricordo come si chiama, insomma l'attuale Kenwood veicolare, molti preferiscono quello perché dicono c'è una modulazione super, però come forma non... così... può piacere o non piacere, a me piaceva più l'8008 francamente. Ma una cosa, di solito quando lo compri l'8008 lo danno col mic normale, cioè che ha solo i tasti up down, le solite cose, no? Io non so se fosse un'offerta della Media Globe, se fosse un regalo fatto alla Media Globe, quando mi è arrivato aveva già la tastiera completa, tastiera proprio full, non una tastiera normale, mi hanno messo il microfono che se lo vai a comprare da solo costava una cinquantina di euro, loro me l'hanno messo già di serie, anche se non era previsto dalla IAESU, capito? Quindi lì è comodo perché imposti già la frequenza dei tassi, c'è tutto lì, potenza, è un bijou quel bandino, dai. E basta. Quindi in più c'ha il microfono tastiera completa, capito? Sì, anch'io c'avevo il 708 così con la tastiera di DMF. E se addirittura il microfono si illumina, capito? Il microfono si illumina perché siccome è multifunzione, e puoi fare tutto al microfono, si illumina e quindi lo vedi anche di notte, eccetera. C'ha tutto, c'ha tutti i numeri, c'ha tutte le funzioni, capito? Sì, anch'io avevo quel microfono. È bellissimo, però ti ripeto, io avevo difficoltà nel camminare, quando stavo camminando, ad avere le funzioni dirette così, mi dovevo fermare, mi avevo tolto dalla macchina. Sì, ma io quelli veicolari della Kenwood li ho avuti tutti, 701, 702, il 735, 735, 732, 731, li ho avuti tutti, il 742 che era un po' più grande, hanno della modulazione fenomenale, ecco perché il Kenwood, ma anche a livello amatoriale come HF, i vecchi 940, 950, 850, esce molto bene in banda laterale, però anche in banda laterale a livello HF, capito? Vanno molto bene. Quindi magari sono radio che usano. L'altro giorno, proprio in 40 metri, stavo ascoltando, c'era un radioamatore con questa modulazione, una fortissima, bella, corposa, mi ha detto, Vicio, è un Kenwood. Anche a fare l'apposta, quella gli ha chiesto cosa stai usando, il vecchio DS430 con MC60, senza però avere inserito l'amplificatore microfonico dell'MC60, no, sotto in posizione I, però l'impedenza anziché a 50 a 500, ma era, guarda, così bella la modulazione, è favolosa, e aveva, come si dice sempre, una bella antenna sul tetto, perché non era radio che fa spettacolo sulle antenne. Se le antenne sul tetto, stai pur certo che con 140 arrivi in capo al mondo. Eia, sì, è l'antenna che fa il grosso, puoi avere anche una radio retro, ma è l'antenna che fa il grosso. Noi siamo sempre un euro per la radio, 100 per l'antenna, quello è vero. anche un po' per avanti settimi, perché c'è gente magari che si compra boomerang, si comprava un'epoca mini grand plane tutte caricate che non servivano a niente. Vabbè, quindi insomma, le radioline, sì, il tempo l'ho visto, ma di estetica non so. Sa perché mi piaceva più l'8008? Era una fissazione mia, come vedi mi sono tolto il gusto, ma poi. Comunque Claudio, conosce il movimento, non ti conviene mettere lo shift dei ponti, bisogna memorizzarsi già tutte le frequenze sia in simplex che su ponte già programmate, in modo che tu non fai altro che spostare una rotellina e sei già tutto programmato, subtono, ingresso ponte, uscita ponte, capito? Perché al momento è un casino, farlo così al momento è un casino. Cosa che io non ho mai fatto, mai toccato i ponti, subtoni, lì in TML eravamo in chiaro, quindi bisognava toccare solo l'FM larga o stretta lì. Perché ho sempre detto, mettete l'FM stretta, se no disturbate i canali coso. Però sai, c'era qualcuno che non aveva idea di cosa toccare, quindi era inutile anche raccomandare quella cosa lì. Solo Pomponio lo sapeva fare, io e Pomponio, e vabbè, altre persone, però quelle più anziane non avevano idea di cosa toccare, quindi magari rimanevano forse in FM larga, non lo so. No, io non si può qua toccare, io con quella base, il pulsante, largo e stretto, e quindi ti dice larghi, comunque portati i cinesi, sono le funzioni diverse che magari qualcuno non sapeva fare. Stavo dicendo sì, ma io ci avevo tutto memorizzato, Marco, è che purtroppo ma anche adesso soprattutto ci sono tutti i poli che sono tutti cambiati, capito? È vero, hanno cambiato il tono, cioè sono tutti cambiati, quindi prima avevo memorizzato in una maniera, poi avevi messo in un'altra, poi andavi a pigiare e non prenderla, allora dovevi andare sui tuoni e cambiare il tono, capito? È un casino. No, mi creava un sacco di problemi, davvero, ce l'avevo tutto memorizzato, mi ricordo questo particolare che era una rottura di scatto, infatti l'avevo dato e mi avevo rimesso il mio mitico Playwood, che era così semplice, perché anche il mio c'è i toni, il mio è completissimo, è completo di tutto, quello lì non sto usando, l'ho usato pochissimo quest'anno, l'avevo messo in macchina giusto per ascoltare nel Fiorino, poi ogni tanto sentivo Vittorio lì, quando salivo sulla Trinità, Vittorio Valt, facevo le chiacchiere con loro, poi quando ho cambiato la macchina che me l'hanno sostituita, no, non ne ho più messo, perché me la cambiavo con mio collega, qui e là, capito, lo smontare, fare, rotolare, basta. Non ho più messo nella macchina di famiglia, non ne ho mai messo, non ne metterò mai, anche non ne buco macchina. In questa la battaglia la stessa cosa, intanto non ne faccio niente, non parlo con nessuno, quindi non stai a vedere la radio, ascoltare chi? Ascoltare i fantasmi, tanto i fantasmi siamo proprio denti, quindi va bene. Tanto vedo, secondo me dovrebbe comprarsi quel carretto che hai detto tu, l'ho detto io, e provare l'MB più 4. Io glielo ho detto, il mio è già testato, Iaesu, io ho un MB più 4 nuovo dentro la scatola, connettore Iaesu che usavo in AM, tra volte fatto sentire, con l'FT920, ok, ed era una canonata, quindi non ha bisogno manco di fare connessione, prima di comprarselo, lui si compra solo il carretto, gli do tu io, costa 18 euro quel carretto, ok, lui si compra il carretto, io vedo il microfono testato, Iaesu, lui l'attacca, se esce bene se lo compra il microfono, se non esce bene pazienza. Eia, utile, che c'è la storia che interviene l'LC, non so, io non essendo radioamatore non ho mai studiato quelle funzioni, non le ho mai studiate. sicuramente chi ce l'ha per uso intenso saprà come impostarlo. Una volta sullo Gescapo uno ha detto di mettere tale impostazione, io l'ho seguita alla lettera, mi sono segnato prima quello originale, l'ho messa alla lettera, uno schifo lo stesso. Io per riuscire a uscire appena decente col microfono ho dovuto fare la modifica suggerita da un radiatore, cioè sostituire una resistenza ed eliminare un condensatore. Infatti ha migliorato la modulazione da M, e che Pomponio sai esce sempre basso, ha una vocina anche di persona, io Pomponio non lo sento, io sento io Antonè, voce, non ti intendo, ha una voce bassa, quindi anche al baracchino è sempre più basso di tutti, con qualsiasi baracchino sia di voce. Se si riesce a intervenire su quell'imitatore si può migliorare di molto. Il Natalino dice usciva che era una bomba dalla macchina, era anche strano. E lui mi ha detto che se lo usava in macchina per modulare il movimento, e io ho pensato, e se lo fermavano come cosa mi si giustificava lui? E vabbè, io quando li ho usati per ricezione, anche no, io lo usavo sempre con molta discrezione, cioè l'avevo smontato, chiuso, non arrivavo sul punto, montavo, ascoltavo, se devo ascoltare, se devo parlare di PMR qualche passaggino, direttamente quella volta che mi ha telefonato, con una scala a Sassari, mamma mia quando ci penso. Vedi, era solo per cosa, scopo didattico, poi mi ha inceso a me il PMR, Claudio, non sto piantando, il portatile è lo stesso a marcire, il Baofeng, è a marcire, no, più manco caricato. Io, vabbè, tu lì, finito buco, lo prendo, te l'ho visto da qui, no, vabbè, l'ha fatto quell'altro, capito, e c'era una Santa Teresa che stavano facendo una misurazione ad un albergo. Siccome le frequenze di quelli di PMR, anche loro usano questi PMR, no? Sulle alberghe eccetera, però è un sistema un po' diverso, capito? Circuito interno, abusivo, e quindi facendo questa misurazione, questo controllo, inteso uno, non hai capito, non sono andato a usare la Santa Teresa di Gallura a fondo scala. Manco registrato, non è ancora agli atti, quello che sto dicendo, capito? E quello che ti sto dicendo, che molti non capiscono che ci può essere quello che ti può fare del male, penso che sia ancora tutto fermo, al momento opportuno lì sicuramente scatta il bus de miau. E lo stesso a Fiumesanto c'è il radioattore che conosciamo, dai, che lavora lì, e aveva chiamato Pomponi e gli aveva detto, ma Tomè non è che puoi abbassare, perché dice qua a Fiumesanto non ci sentiamo, non riusciamo a sentirci tra di noi col PMR, non si sentivano tra di noi perché Pomponi li passava da Sassari, roba da mani. Vedi, quello è una persona civile e corretta che ha chiesto la cortesia, ma non tutti sono come quello lì. Capito? Se quello non era fruttivo, lì dovrei, ah sì, ah, oddio, perfetto, aspetta, lo registro immediatamente, faccio una foto del segnale su WhatsApp e poi devo sbandare la giamba. Capito? Quello che sto dicendo, e purtroppo non tutti sono uguali. C'è quella persona corretta, tranquilla, e lo chiede per cortesia, c'è quello che dice, ma Ghito, non te mai Ghito che fa vedere vicino, devi trattare Ghito, ah, è detto per un vostro video, e ti fanno male, capito? Io lui Antonello fa la direttiva puntata a Fiume Santo. Via. Mi è venuto il dubbio a me, io li sentivo da Fiumesanto, i segnali erano distretti, ho detto com'è possibile che un portatile 500 mW omologato arrivi da Fiumesanto, a me non mi arrivano, cioè quelli omologati da Fiumesanto zero tonnali, che nemmeno può le sento nessuno, nemmeno da sentino, nulla. Io massimo sento il PMR da Sassari, allora anche quelli però sarebbe da dire che non sembrano tanto omologati se arrivano così forti a Sassari, non so se mi spiego. Ma tu devi capire che lì ce ne sono due radioattori, fanno lavoro uno di verso all'altro, quindi o hai sentito un radioattore, usa il suo, che lo so, l'altro non lo so, un altro radioattore, però hanno dei compiti diversi, quindi può darsi pure che sentivi quello che usa il portatile come il mio, il Vox, capito? È un radioattore. Perché da Fiume Santo c'è anche il ponte, non è che il ponte dove va fa l'Immi, quindi lì sopra il Torino, perciò gli sono tutte le autorizzazioni per potersi muovere all'interno con quel tipo di apparecchiatura. Poi gli altri hanno, capito, gli assistenti magari sono dei radioattori, hanno il portatile amatoriale e gli altri operai hanno il PMR normale che è realizzato, quindi magari tu sentivi allora, non sentivi gli altri, comunque sentivi perché si stava disturbando, non penso che siano persone che arrivano a Bamberg, capito? Chi è che sta chiamando sul canale 10, avanti? Avanti Bari, buonasera, Sassari ti ascolta. Anche noi ci abbiamo il monte qua, anche noi ci abbiamo il monte, qua, grazie a Via Grazia Veleda è considerata il monte, sono contento che ci abbiamo, che anche lì a Bari avete il monte. Ciao Dino, buonasera, ben ascoltato, avanti Marco. Ciao Dino, ben ascoltato, Marco dalla medesima città di Claudio, ben ascoltato, mi senti? Il microfono, buonasera, ben ascoltato a tutte e due. E niente, qua Dino, l'ho detto, la provincia di Bari, ma io sto pensando le figlie sul centesimo, ok Roger? Molto bene, no, noi abbiamo una zona qua di Sassari che si chiama il Monte, capito? Ecco perché te l'ho detto, pensavo che fosse una zona. Va bene Dino. 5859 con QSB, segnale per te, ottima la radio, senza nessun problema. Vai Marco. Sì, guarda, quando era fisso di segnale, picco massimo 9 più 10 qua, è arrivato, quando era quasi fisso di segnale, quindi ottimo segnale, poi è sceso. Allora, siamo molto QSB, diciamo, dai. Ok, avanti di nuovo l'amico, avanti del Sud Italia. Dai, dai. Questi sono due. Io sento più stazioni. Ci sono accavallati. Grazie a un amico che sta a Isi di Moro. Hai un amico Dino di Isi di? La seconda regione. Ah, ho capito, Beh, tu immagina che i miei titolari della mia azienda, che è una multinazionale, sono proprio di Bari, di Canosa di Puglia. No, no, è una delle più grosse multinazionali al mondo, non te lo posso dire qua, se non faccio pubblicità, però è una delle più grosse multinazionali al mondo. È una multinazionale spagnola con i titolari che sono praticamente baresi, capito? Baresi. Ci abbiamo sede a Bari come sede, come Italia, perché è spagnola, e poi a Milano, capito? Però loro sono baresi, sono entrati da piccoli in questa società e oggi sono i proprietari praticamente. rilanciato Dino? No, no. Staccato, no, non ne ho voglia. Marco si è allontanato, Dino. No, no, ma non stiamo parlando di cosettine. Ti dico solo che la mia società c'ha navi, aerei e treni, quindi si viaggia su mare, su cielo e su terra, capito? Non abbiamo, siamo 59.000 dipendenti in tutto il mondo, quindi non abbiamo problemi, capito? Proprio, ripeto, i proprietari, quindi i due amministratori, i due dirigenti maggiori sono di Bari, capito? E io assinando. Sì, ho capito, Dino, ho capito. Molto bene. Si sta abbassando la propagazione, ti sto perdendo, Sento ancora la vedete. Dammi lo travaglio. Lasciamelo tu, fra. Tanto poco fa vedere, Chiscio, invece di tenere mio, ma perché ti pare pure Dino? Non ti sento più, Dino. Beh, ciao. Dove sei andato? Dino, non ti sento. Aspetta, Marco, non ti sento, Dino. Non lo sento più io. È calata la propagazione, Dino, non ti sento più. Io ti sento. Ha detto che ti intendi. Non ti sento. Zitto tu, disturbatore di televisioni. Abusivo. Claudio. Ui, tu come da tu, ciao, bra. Sei mesi che ne travaglio questo. Io lo so così, ma io non posso assumere. Siamo gli attropi, fra, assumilo tu. Mi date un botto d'olio, è una depressione. Allora, meraviglia. Ciao, Juanni. Gli do il mio posto da disoccupato. Sì, se no gli do il mio. Magari è salutato a Vanni. No, Gianni ha detto. A Vanni ha già salutato, lui, Vanni. Ma Vanni è quello che conosco io, che sta ancora vivo. E te conosci qualcuno che si chiama Vanni? Sì, se è Nino, sì. No, non è lui. Mi pare a strano, se no ci arrivi, no. Ho capito. Vabbè, allora salutiamo a Vanni. Si è innamorato. No, ma a proposito, ma l'hai visto, lo vedi a Vannino? Ma è presente. L'ho visto che è sfuggito, così, e basta. Poi si è presente, non lo so. No, dico, se è presente di assorso, capito? Non si sa mai chi si avvola. No, non è più sentito né niente. Non è il telefono, ma vuole se è vivo, Va bene. A riposo si fa. Però si non ti intendo. Cosa? Ma chi tu vuoi far vedere Vannino? Cosa ci dici? Atta la voce, cosa parli solo con Franco? Lucia, va bene, ha già compreso, va bene. No, perché sai, ero preoccupato, non ti sentivo più, non ci siamo più visti, va bene. Quando passo al socio ti tocco la Iana, allora, capito? Ti sento, era Franco che me la prendeva in giro, ha detto ciao Vanni, siccome ti lo so che ti diciamo a Vanni. c'è poco tempo, poca voglia e non da che farmi, capito mi hai? Dormi la sera, immuni meno che usci una mezz'oretta, a dire i vesceri, tanto può ammazzare lo detto. Vabbè. Ti ho mandato fra, ci sei a riposo? No, non sono a riposo, domani sera, oggi era di mattina. Ah, quanto a me è fatto tanto, ma a mezzo via ci mullato due ormeggi, è meglio che andato. Preso permesso, non l'ha messo prima, poi era un cazzo da morire in Sazona di Mari, Sant'Antonio mio, ha giumulato tutto, ciao, e arrivederci e buon viaggio. Marco, lo senti a Vannino di Sorso? Marco! Oh no, sento una corsaria di modulazione, di propagazione, non lo sento. Sul 45 c'è una fogna, un casino! Sul 45? No, ho fatto 45 ieri la banca, chi vi saluto e me ne sto andando. Ciao Vanni, un piacere averti ascoltato, mi ha dato un colpo di telefono, vai, già ti chiamo io. Ciao Marco Bra, ciao Natalino, ciao Marco, ciao a tutti quelli che sono sul canale 10. Vado a cenare e mi do un'occhiata alla partita, vai. Buonanotte a tutti, a domani, ciao. Ehi, ciao Vanni, già ci sentiamo al telefono, vai, mi ha fatto piacere ascoltarti. Ciao Dio Bra, ciao a tutti. Ehi, ciao a tutti, dai, ci sentiamo per le prossime. Ciao Vanni, alle prossime. Ciao a tutti, dai. Non so nemmeno che ore siano, chiudo anch'io, sono stanco. Buonanotte a tutti, da ciao Claudio, Natalino, Franco, Vannino, tutti quanti. Ciao.